giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Le osi climatiche di Udine, ecco come funzionano le aree designate dal comune per sopravvivere all'AFA. Storia, paesaggio, identità si scoprono sulle corse del tram di Opicina dedicate ai turisti. Come eravamo, la comunità di Ucea in Varresia ricostruisce la sua storia per leggere l'oggi. Pierfrancesco Favino e Libano chiudono a Trieste il Festival Internazionale dei Cortometraggi. Sono le 12, 15 minuti 45 secondi. Buona domenica da Rita Micoli. Cominciamo dunque a parlare di clima caldo, stare al fresco e partecipare ad attività nelle oasi climatiche. Quelle di Udine sono state anche premiate. Il servizio. Un figlio accompagna la madre anziana nel giardino del Torso a Udine per cercare un po' di refrigerio in una delle isole verdi della città. Come avete passato questi giorni? Purtroppo al caldo, chiusi in casa con le tapparelle abbassate e il condizionatore acceso. Io ho 93 anni, dunque ne ho passate. Un caldo così non l'ho mai sentito. Questa è una delle oasi climatiche identificate dall'amministrazione comunale di Udine, iniziativa inaugurata lo scorso anno, premiata con l'Oscar della Salute. Qui si sta un po' più freschi? Sì, sì. Se c'è ombra si sta bene, se c'è verde più che altro. È la versione friulana dei rifugi climatici, espressione tornata più volte nei titoli dei giornali nei giorni scorsi. Sono luoghi dove la cittadinanza è invitata ad andare per trovare un po' di tregua dalla canicola. A Trieste, ad esempio, il comune mette a disposizione 7 tra biblioteche pubbliche e musei, tutti a ingresso libero e climatizzati. Cose buone a sapersi per la prossima ondata di calore, mentre quella attuale volge al termine. Previsto un calo di temperature considerevoli per i prossimi giorni, a cominciare da oggi. È in vigore fino a domani mattina alle 8 un'allerta meteo gialla sull'intera regione per temporali con raffiche di vento, piogge intense e grandinate, massima vigilanza del sistema di protezione civile su aree di campeggio, in luoghi con manifestazione all'aperto, è previsto il passaggio di più ondate temporalesche. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Vediamo dunque la situazione attuale del meteo. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, coperto in montagna. Alle 11 c'erano 26 gradi a Trieste, mare quasi calmo con temperatura di 26 gradi. A Gorizia 30 gradi, a Pordenone 28, a Udine 30, a Tolmezzo 25 gradi, a Forni di Sopra 22, a Tarvisio 24, sul Piancavallo 20 gradi, a Sappada 18, sullo Zoncolan 16 gradi, sull'Ussari 17, sulla costa Lignano 28 gradi, temperatura del mare 27,5 grado, 27 gradi, temperatura del mare 26 gradi e 5 decimi. Cielo da variabile a nuvoloso con rovesci e temporali sparsi a più riprese. Queste le previsioni, come avete già sentito, ma anche con fasi di tempo migliore. Piogge e temporali più probabili e frequenti verso sera, localmente possibile qualche temporale forte e temperature massime in calo. Ora la circolazione, come previsto da Autostrade Alto Adriatico, è elevato. Oggi il numero di transiti sulla rete autostradale regionale tra giornata festiva, avvio dei saldi e esibizione delle frecce tricolori in programma alle 15.30 a Lignano si registrano già code e rallentamenti. In A4 code per traffico intenso in entrata alla Tisana, sul bivio A4 A23 in immissione per Tarvisio e code anche sempre a causa del traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. E proseguiamo 20 minuti sullo storico tram di Opicina con audioguida multilingue e kit di benvenuto. Il Trieste Tram Tour, operativo sabato e domenica fino alla Barcolana di ottobre. Il tram parte fischiando da Piazza Dalmazia, sferraglia attraverso la vegetazione del Carso e costeggia le villette tutte storte arrampicate sulla salita, che tanto impressionano i turisti. È il secondo giorno per il Trieste Tram Tour, la versione del tram di Opicina trasformata in un viaggio attraverso la storia e i paesaggi. 8 le prenotazioni raccolte per la prima corsa della domenica mattina, ma più di qualcuno scopre l'opportunità all'ultimo momento con l'aiuto degli operatori che si occupano di smistare i passeggeri fra le corse ordinarie e quelle turistiche. e smartphone alla mano si iscrive giusto in tempo per salire. Alla fine i passeggeri sono una ventina, tutti muniti di shopper con audioguida e merenda triestina. Decisamente maggiore l'afflusso nelle corse successive. A bordo qualche turista arrivato da lontano, ospiti da ogni parte d'Italia, dal Veneto alla Sicilia, dalla Campania al Piemonte, e in qualche caso approdati in città per assistere allo spettacolo del Cirque du Soleil, ma anche qualche triestino alla riscoperta della sua città. Una ventina di minuti il tempo del viaggio per percorrere un tracciato di circa 5 chilometri con un dislivello di 329 metri. Trieste, La Razzani, TGR Friuli Venezia Giulia. In montagna ora ha preso il via il percorso partecipativo per una mappa di comunità di Ucea, comune di Resia. Tre incontri per condividere memorie e conoscenze e rinsaldare il legame tra passato e presente. Roberto Di Leonardo non abita più stabilmente a Ucea, uno dei borghi più isolati del comune di Resia. Eppure ogni volta che può è qui ad aprire la chiesetta di Sant'Antonio per la comunità. Negli anni 50, tra queste 37 borgate abbarbicate alle montagne al confine con la Slovenia, vivevano circa 500 persone. Oggi gli uceani, anche se risiedono o lavorano giù a valle, continuano ad abitare il paese, lo fanno solo diversamente. Lo hanno adottato a distanza, se ne prendono cura continuando a tornare, nei fine settimana e nelle feste, ristrutturando, pulendo i sentieri. Giancarlo Buttolo. C'è dietro il rispetto per tutti i nostri anziani, per chi ha costruito tutto ciò che adesso noi abbiamo. Oggi ad Ucea tornano a suonare le campane, si tirano fuori tavole e panche e ci si siede tutti insieme a condividere memorie. Quando dalle strade non si passava per la neve alta, quando c'era una sala cinema e la latteria voluta dal parroco, parlano in resiano, in mezzo un registratore. Tracciano tutti insieme, ricordo dopo ricordo, una mappa di comunità, progetto dell'Ecomuseo Valeresia, che dopo aver toccato altre frazioni fa tappa ad Ucea. Celesta Siega. Sono sempre ritornata perché mi piaceva il paese. Non è bello, ma insomma per chi ce l'ha qua dentro è bellissimo. Maria Laura Siega. È una cosa importante per la comunità e anche per mantenere viva la memoria. Chiedono a gran voce alla sindaca di sistemare la latteria per farne un centro di aggregazione. In modo da poter avere un punto di riferimento, in modo da diciamo da poter riunirsi, poter scambiare le idee, poter ricordare, poter creare insomma un po' di comunità, quel poco che resta. Ucea, Resia, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è terminata ieri a Trieste la rassegna dei cortometraggi shorts. Sentiamo. È stato Pier Francesco Favino l'ospite d'onore della serata conclusiva di Short Yes, il Festival Internazionale dei Cortometraggi al Giardino Pubblico nel capoluogo regionale. Per l'attore romano, il premio speciale interprete del presente. Favino è stato anche protagonista di una masterclass incentrata sul suo percorso artistico al Teatro Miela. Quanto al concorso, il film vincitore della sezione Mare Metraggio è stato Ippopotami, una produzione cinese e hongkongese firmata da Jean Fierlin, scelto dalla giuria, dice la motivazione, per i suoi dialoghi insoliti e per un linguaggio visivo al tempo stesso radicale e delicato. Menzioni speciali per 400 cassettes della regista greca Telia Petracchi e per Visitare i cancelli del paradiso del vietnamita Nguyen Khi Trang. Il pubblico ha invece premiato Transumanza di Giovanni Bertoia. La serata si è conclusa con il focus sul Libano, con sei cortometraggi in arrivo dal paese dei cedri che proseguono un percorso ideale dedicato alle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. E questa sera concerto conclusivo del Festival Transfrontaliero Sconfinamenti guidato da Alexander Gadiev, pianista di fama mondiale. Proprio Gadiev sarà protagonista della serata al Teatro Verdi di Gorizia, dove suonerà pagine di Beethoven, Debussy, Bartok, Schumann e in chiusura la celebre seconda sonata di Rachmaninov alle 20:30 con ingresso libero. E una campagna di sensibilizzazione per i giovani sul problema dell'astensionismo elettorale, opera di un team di 5 studentesse dell'Università di Udine, ha conquistato il terzo posto al 24esimo Spot School Award Mediterranean Creativity Festival di Salerno. Il tema era stato commissionato da Caritas Italiana. Il progetto Non Voto, Solo Vuoto è stato ideato e realizzato da Sara Musruana, Giada Ferrari, Ferracin, Sofia Galli, Benedetta Camparin e Martina Soldan, che hanno dato vita al team Caleido. Le studentesse frequentano il corso di laurea magistrale in comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni della sede di Gorizia dell'Ateneo Friulano. E nel parco di Casa Madonna Pellegrina di Pordenone si conclude oggi Diversi e Saporiti nel Giardino del Mondo, piccolo festival delle meraviglie organizzato da Scuola Sperimentale dell'Attore, l'Arlecchino Errante e Caritas Diocesana. Dalle 15 Giro Giro Mondo promuove incontro, ascolto, dialogo tra culture attraverso danze dal mondo, geopolitica, fotografia, artigianato e convivialità in collaborazione con il Giavera Festival del Montello. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Paolo Cassano e Tommaso Vinoni, in redazione ha collaborato Daniela Sossi. Da Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.